1, 2, 1, 2, 3. Mi sento bene solo se mi faccio male. Bene in fondo che cos'è? Ognuno ne ha per sé. Rovescia e contrariata a contraddizioni di donna arrivata e libera. Sono puntuale come ogni settimana, sulle note di Acustica Sonata dei Prozac Più si apre un nuovo appuntamento con questa seconda stagione di Acustiche Stonate, storie di donne che con la loro arte, con la loro musica e la loro vita hanno lasciato un segno stonato fuori dal coro e rivoluzionario in ogni epoca. Tra i nostri racconti non poteva mancare lei, una cantautrice che è riuscita a imporsi come vera e propria icona del glam rock ma anche del punk, mostrando una grande versatilità e un carisma fuori dal comune. Oggi faremo un viaggio all'interno del mondo musicale di Joan Jett. Come frontwoman delle Runaways, Joan Jett è diventata una pioniera femminile nel mondo della musica rock, dominato dagli uomini. Ma chi è Joan Jett? una cantante, cantautrice e produttrice che è entrata nel mondo della musica all'età di 15 anni, nella band The Runaways appunto, e ha continuato a diventare una delle donne più influenti del rock, registrando successi come I Love Rock and Roll, fondando la Black Hearts Record e producendo Riot Girl, Bikini Kill e Hell 7. Joan Jett è nata a Joan Lurking il 22 settembre 1958 a Filadelfia, in Pennsylvania. La sua passione per la musica è iniziata presto e ha ricevuto la sua prima chitarra all'età di 14 anni. Ho imparato a urlare da Mark Bolan dei T-Rex. Joan ha iniziato la sua carriera musicale da adolescente, formando la sua prima band seria, The Runaways, all'età di 15 anni. La formazione finale comprendeva Jett alla chitarra e alla voce, Sandy West alla batteria, Cherry Carey alla voce solista, Jackie Fox al basso e Lita Ford alla chitarra. La band era in anticipo su tutta la linea, con il suo suono hard rock emerso durante un'era in cui la musica da discoteca era sovrana. Si sono anche sentite licenziate dal pubblico e dalla critica a causa della loro giovane età e del loro genere. Nonostante quindicenni, sapevano esattamente cosa stessero facendo. Anche il loro apparire è stato spesso oggetto di critica. Carey ha scelto di indossare lingerie sul palco e Joan Jett appariva spessissimo con la sua tuta in pelle rossa. Nel 1976 le Runaways pubblicarono il loro primo album omonimo, che non riuscì a impressionare sia critici che pubblico. Tuttavia la canzone Cherry Bomb, con il suo lato ribelle e grezzo, che Jett ha scritto con l'amico Kim Foley, è diventata un successo punk. Mentre l'album non ha avuto nessun successo negli Stati Uniti, le Runaways ricevettero un caloroso benvenuto in Giappone, segnando lì i loro 3 dischi d'oro. Dopo che Carey e Fox se ne andarono a metà del 1977, Joan Jett emerse come solista. Era già una forza potente dietro le quinte, scrivendo la maggior parte delle canzoni delle Runaways. Non lo accettai, non so cosa volevo fare. Una rottura è come perdere un ottimo amico, è come morire. Decidendo di intraprendere una carriera da solista, Joan trascorse un po' di tempo in Inghilterra lavorando con Paul Cook e Steve Jones, entrambi ex membri del leggendario gruppo punk dei Sex Pistols. Joan cercò di ottenere un'etichetta discografica per distribuire il suo nuovo album, ma fu respinta da ben 23 diverse compagnie. Per frustrazione, lei e Laguna fondarono la Black Hearts Record nel 1980, rendendo Joan Jett la prima artista femminile a possedere e ad avere il controllo diretto su una casa discografica indipendente. Nel realizzare il disco, ottenne l'aiuto del supergruppo rock The Who. Laguna era amico dei membri della band e del loro manager e lasciarono che Joan Jett usasse le loro strutture di registrazione. Forte di questo primo successo, la Jett sceglie di fondare una band, i Black Hearts, e inizia le registrazioni del secondo album, I Love Rock and Roll, che grazie all'omonima cover e title track le permette di raggiungere il successo planetario. The record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. Singing. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah me. Next we're moving on. He was with me, yeah me. Singing. I love rock and roll. singing that same old song. Yeah, with me singing. Sulla scia di questo exploit, anche il terzo album ottiene un ottimo riscontro in termini di vendite, mentre è più tiepido il riscontro del quarto disco, Glorious Results of a Misfit Yacht. Dopo un periodo non particolarmente fortunato, Joan torna a far parlare di sé nel 1988 con il brano I Hate Myself for Loving You, tratto dall'album Happier LA. degli anni 90 non iniziano nel miglior modo per l'artista, che vede la sua stella affievolirsi anno dopo anno. Torna in auge cavalcando l'onda del movimento grunge e dell'alternative rock e con l'album Pure and Simple riesce a ottenere ottimi risultati in termini di vendite e di critica. Forse l'ultimo disco veramente acclamato della sua carriera. Ma cosa fa oggi Joan Jett? Suona in una varietà di concerti allucinanti, dedica gran parte del suo tempo a cause sociali, è attiva con Farm Sanctuary, un'organizzazione per la protezione degli animali. Anche Joan Jett è vegetariana, ma afferma che il suo obiettivo è essere vegana, aiutare gli animali e la terra. I will not take off my clothes. I will not be rude. For what I have done is come to rock you. Rock you. Rock you. Late at night while the noise Purtroppo la nostra puntata termina qui, ma ci risentiremo il prossimo mercoledì sempre su Radio Godzilla. Told me to slow down my pace. His friends would come over and get in my face and ask the same question. Mine or your place? It's alright to be treated like a lady. I couldn't wait till that notion ceased. My friends thought that I was a little angel. I couldn't help it if I felt like a beast. So when I die, don't worry about a coffin. There won't be no ashes to stuff in the urn. Just lay me out, toss on the truck lighter. Fire me up, smell the leather burn. Black leather, I'm wearing.